Zibaldone. Zibaldone. Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio a tutti, bentornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda. Io sono Steven Forti, questo già lo sapete, è un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica Radio Libera Barcellonese, Contrabanda FM 91.4 sul litorale catalano, in streaming all over the world alla nostra web contrabanda.org e poi ovviamente i podcast. Molti di voi sicuramente staranno ascoltandoci in podcast, sono scaricabili dal nostro blog zibaldone.contrabanda.org, oltre ormai 12 anni di podcast del nostro Zibaldone. E una settimana di vacanza, la settimana scorsa per noi, era il 2 giugno, ci siamo presi anche noi la giornata libera. Torniamo questa settimana, questo venerdì, con altre due ore di Zibaldone, una puntata in cui ci sarà molta musica, ci saranno vari invitati e parleremo anche molto di libri che hanno a che fare con la politica, la società, l'attualità sia in Spagna che in Italia. Cominciamo però con una canzone che è anche un omaggio, come forse sentirete tra poco, se riconoscete il brano. È una storia di tutti i tempi, una storia di povertà. L'artista vestito male, senza cravatta, senza gilet. Fa niente se non mangiava, andava in giro, pareva un re. Innamorato di una modista del quinto piano interno 3. Un giorno la chiese sposa e lei non disse nemmeno beh. È una storia di tutti i tempi, è una storia di povertà. Portarono i loro stracci lassù in soffitta vicino al ciel. Guardarsi senza parlare era una gioia per giorni interi. Solo che a furia di non mangiare le venne fame, lei se ne andò. L'artista rimase male, non comprese neanche il perché. È una storia di tutti i tempi, una storia di povertà. Destinata a finire male, questa storia di povertà. Una storia di tutti i tempi, una storia che non ha età. Non ha capito ancora l'artista che non si pensa soltanto a sé. Non si ricorda della modista, va sempre in giro che sembra un re. Ancora l'artista che non si pensa soltanto a sé. Non si ricorda della modista, va sempre in giro che sembra un re. È una storia di tutti i tempi. la genialità, l'ironia anche in questo caso di Enzo Iannacci per iniziare lo Zibaldone di quest'oggi. È un Enzo Iannacci che ci ha lasciato 10 anni fa e che qui è omaggiato dagli Arpioni, storica band ska, ma non solo ska, bergamasca, un disco intitolato Rido e piango che non si sa mai, Iannacci secondo noi. E la canzone ovviamente era L'artista. Per questa puntata di Zibaldone, Banzo, che ha un titolo un po' così, insomma, interpretabile, lo stato di Liuponopolis. Tu ne sai qualcosa? Bentornato, più ergonomico immagino che mai, il nostro Banzo. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. No, non ne so moltissimo perché il titolo questa volta l'hai scelto tu, ma mi riservo il piacere di scoprirlo in corso d'opera, diciamo. E quindi per il momento non lo so, ma lo saprò a fine puntata sicuramente. Eh sì, perché parleremo di Stato, parleremo di Liuponopolis. Voi non sapete dove si trova, magari adesso lo state cercando dai vostri cellulari intelligenti, però insomma a breve ce lo spiegherà Peppe Voltarelli, che è il primo ospite di questa puntata. Ci presenta proprio il suo nuovo disco appena uscito, fresco fresco di stampa, un disco tra l'altro che è stato registrato nella Grande Mela a New York. E poi invece parleremo di Stato con Paolo Gerbaudo, sociologo e teorico della politica, autore di un libro intitolato Controllare e proteggere, il ritorno dello Stato, che è stato presentato anche ieri qui a Barcellona nella sua traduzione in spagnolo. E che non è, Steven, il titolo di un poliziottesco degli anni 70. No, esatto, però il ritorno dello Stato forse era un sottotitolo un po' così, il ritorno, non lo so, dell'investigatore... eccetera eccetera, ecco, però anche sì, anche perché poi nei poliziotteschi spesso la polizia non può sparare, ecco, questa è un po' irrazionale, però controlla e protegge. Dovrebbe essere quello il compito, ma poi sappiamo che ci sono dei casi di mala giustizia, ecco, anche uno molto recentemente a Verona. Assolutamente, sì, molto grave tra l'altro. E poi insomma comunque ci accompagnerà tanta musica oltre agli Arpioni, varie news che sono uscite e stanno uscendo in questo momento, non mancheranno alcune delle nostre rubriche come di Italia Otra Parte o anche i libri dello Zibaldone. Comunque insomma lo scoprirete insieme a noi prossimamente. Banzo, che dire sugli Arpioni? Una bella versione quella dell'artista, un bel omaggio tenendo conto insomma che Iannacci è davvero stato uno dei grandissimi, dei geni della canzone italiana, forse misconosciuto per molto tempo. Ma non so se si può dire, beh, adesso credo che il riconoscimento Iannacci lo abbia avuto, però è importante che gli artisti rilevanti ricevano anche dei riconoscimenti inattesi. E cosa voglio dire con questa frase? Semplicemente che tu sai già la mia teoria sulle cover, non devono rispecchiare fedelmente l'originale, se non lo fanno è meglio. E in questo caso appunto adattare le canzoni di Iannacci partendo da un retroterra che sta dalle parti dello ska, del rocksteady, anche un po' del reggae, è un'operazione ardita, può essere interessante. E sicuramente possiamo dire che, perché mette in comunicazione mondi diversi che non sono soliti comunicare troppo, diciamo, ma possiamo dire che è stata un'operazione riuscita perché ha ricevuto la benedizione di Paolo Iannacci, figlio dello stesso Enzo, che gli Arpioni hanno riportato un messaggio che avevano ricevuto privatamente, nel quale il figlio del grande artista esprimeva il suo applauso per l'operazione, che è assolutamente rispettosa, diciamo. Comunque, nella scelta dei brani, perché si tratta di un disco con 10 canzoni, ho cercato di privilegiare quelli dove, diciamo, la struttura ritmica spiccasse, perché ovviamente se stiamo parlando di Sky, generi affini, ecco, diciamo che sì, sicuramente c'è un cambio di ritmo rispetto, ma non è una cosa la madness, però c'è un cambio di ritmo rispetto agli arrangiamenti originali di Iannacci. Eh sì, andiamo ad ascoltarci appunto un altro brano, Il dritto, sono gli Arpioni. Festa nella casa popolare al tre, paste, vino in fresco come al tabaren. Gira, gira, gira dischi e va, è solo appoggiato in fondo al muro sta, zitto sta. Il dritto non voleva ballar, non voleva parlar, guardava. Il dritto non sapeva ballar, non sapeva parlar, fingeva. Diceva lui di odiare il lavoro, ma scoppiava al suo cuore la vita a lui. Tuoni e la casa sembra un varietà. Suda, ma la fronte non si asciuga mai. Gira, gira, gira il giradischi e va, ma dove va? Il dritto lui si mise a ballar, lui si mise a parlar da solo. Il dritto continuava a gridar, seguitava a gridar, perdono. Diceva di volere l'amore, ma finì contro il muro. Il dritto Enzo Iannacci, anche in questo caso appunto cantato dagli Arpioni, e gli Arpioni ricordiamolo che tra le tante cose che hanno fatto sono state anche le collaborazioni con Tonino Carotone, che hanno accompagnato in tournée in Italia durante svariati anni. Banzo, un commento telegrafico su questa il dritto? Beh, si tratta di canzoni di periodi diversi di Iannacci, perché l'artista è una canzone dei primi anni 60, mentre il dritto proviene dall'album Ci vuole orecchio dell'80. Però diciamo la resa è comunque molto coerente, diciamo, sono riusciti secondo me a impostare una continuità di discorso anche su canzoni provenienti da periodi diversi della produzione di Iannacci, perché appunto c'è questo collante dell'arrangiamento ska e dintorni, ecco. Effettivamente è proprio così. Ci attende già in linea il nostro primo ospite, Peppe Voltarelli. Andiamo ad ascoltarci una canzone dal suo nuovo disco e poi ne parliamo insieme a lui. Mare nido affonda e senza luna, sti da scostumata sola che va fuggendo ancora. Mare nido affonda e senza sola, senta voce mia, la sento buona. Mare nido affonda che fa paura, c'è ancora troppa gente abbandonate sola. Sulla dintra notte mai affacciata, e sente se rumore e riconosce se gridata. marinira, marinira, marinira, marinira, marinira, marinira, marinira, marinira, marinira, marinira, marinira, che vi proponiamo, la canzone anche che apre il nuovo disco di Peppe Voltarelli, La grande corsa verso Lupionopolis, uscito da pochissimo, alla fine di maggio di questo 2023. Abbiamo in collegamento telefonico con noi Peppe Voltarelli, a cui do un calorosissimo benvenuto, un bentornato, perché lui è stato molte volte ospite anche qui in studio del nostro Zibaldone. Peppe, come stai? Ciao Steven, sto bene, grazie di questo invito, è sempre bello tornare con voi a Zibaldone. Beh, tu sei veramente, credo, l'artista, l'invitato che è stato più volte ospite nel nostro programma di radio, quindi insomma sai che qui ti amiamo moltissimo da Barcellona. Grazie, grazie. Ascolta, nuovo disco, un disco tanto atteso, un disco a cui hai lavorato molto tempo, un disco che lo si percepisce anche dalla copertina dell'album, insomma ti ha fatto viaggiare per poterlo registrare. Beh sì, è un lavoro nato da questa da questo desiderio di confrontarsi con dei musicisti newyorkesi, con una realtà musicale urbana, metropolitana, alla quale sono molto legato emotivamente da tanto tempo, e mi piaceva l'idea di consegnare a questo mondo musicale le mie canzoni in dialetto calabrese, quindi creare questa sorta di grande relazione tra il sud dell'Italia e questo luogo meraviglioso che è New York. E infatti sulla la copertina, per chi magari non l'avesse ancora vista, consigliamo di andare a cercare, è una fotografia in bianco e nero però rielaborata del ponte sull'Hudson e Manhattan, no? Sì, sì, è il ponte di Williamsburg visto da Brooklyn, ed è un luogo, insomma, cioè l'idea era quella di guardare questa città come luogo di estrema libertà espressiva, no? E quindi il luogo che ha accettato milioni di migranti da tutto il mondo, compresi ovviamente gli italiani, e che è riuscita a fare di questa grande differenza, di queste grandi differenze di comunità, un'unica sola voce, che poi è la voce pulsante di questa città, che si esprime nella sua musica, nei suoi musicisti, nelle sue meravigliose notti di musica. Eh sì, no, beh, insomma, New York è New York, come cantava anche The Voice, no? Qualche tempo fa. Ascolta, sì. Peppe, l'altra domanda, diciamo, che sorge spontanea, come diceva Lubrano, e che è ovvia, è il titolo di questo disco, La grande corsa verso Liuponopolis. Cioè, spiegaci un po' da dove viene questo titolo e soprattutto questa Liuponopolis esiste, dov'è e di che si tratta? Allora, Liuponopolis è un piccolo centro del Paraná, vicino a Curitiba, vicino a Londrina, al sud del Brasile, ed è un luogo dove io ho scoperto qualche anno fa l'esistenza di un supermercato che porta il mio nome, cioè del mio stesso cognome. E quindi, siccome è un posto, diciamo, sede unica, molto bizzarro, dove i proprietari e i lavoratori hanno queste divise gialle, rosse, blu, molto, molto sgargianti, tutto molto eclettico, allora nel momento massimo, ecco, della tristezza e della depressione in pandemia, ho pensato molto che avrei dovuto, cioè, se in un momento estremo così sarei potuto comunque andare a Liuponopolis a lavorare con loro, ed è bello. Poi piano piano ho elaborato questo pensiero sul fatto che c'è sempre un posto nella nostra mente dove noi immaginiamo di ritrovarci, di scappare, di ricoverarci, un locus amicus, diciamo. Un luogo per ripartire, per ricominciare. Allora ho pensato che in ognuno di noi fondamentalmente c'è una Liuponopolis nella testa, no? E a cui tende inesorabilmente, e quindi e poi c'è questa grande corsa che è un po' questa voglia smisurata di scappare, no? La fuga come senso, no, principale anche dell'idea del viaggio, no? Di scappare da una situazione che ti opprime, che non ti fa sentire libero, no? E quindi è nata questa corsa verso Liuponopolis. Ascolta, tra l'altro voglio dire, tu hai viaggiato tanto in questi ultimi anni, soprattutto con la tua musica, hai suonato molto negli Stati Uniti, in Sud America, in Argentina specialmente, e quindi insomma ricordo anche il film che avevi, di cui eri stato il protagonista, che si svolgeva proprio tra l'Argentina e il Bronx. Sì, La vera leggenda di Tony Villar è stato forse la prima grande esperienza all'estero attraverso la quale sono riuscito anche a elaborare la mia idea di italianità all'estero, no? Perché poi in fondo questo lavoro nuovo è lo sviluppo di, come giustamente dicevi tu, di 20 anni di riappropriazione di un'identità che poi alla fine, dopo che te ne sei riappropriato, la devi comunque rimettere in gioco, non è più quello che pensavi, si è trasformata, è stata rielaborata, infatti poi è diventato, cioè ormai nella mia mente, nella mia testa, l'America non è più l'idea dell'italiano del Bronx della prima volta quando andai nel 2002, ma adesso per me l'America è un luogo di molto diverso, ecco. In particolare, musicalmente parlando, è proprio il luogo dove le mie canzoni trovano una grande solidarietà, diciamo, ecco, trovano un grande orecchio che le ascolta, una grande comprensione, e quindi questo è molto bello. Beh, immagina com'è stato rapportarsi con musicisti americani con il canto in dialetto, che è bastato veramente 2 giorni di lavoro perché loro erano completamente dentro le canzoni. Certo. E questa cosa qua è il più grande regalo che mi sia stato fatto da questo disco. Sì. A proposito di canzoni, andiamocene a ascoltare un'altra e poi torniamo qui insieme a te. Si chiama O Cinema, non so se la vuoi introdurre tu ai nostri ascoltatori. Beh sì, O Cinema è una storia bizzarra di un amico mio che ama andare al cinema negli orari in cui non c'è nessuno, cioè il primo spettacolo, il pomeriggio, perché lui ama il fatto di vedere il cinema solo per lui, è come una cosa quasi religiosa, sacra, e quindi il testo dice proprio e ir mo, cioè devo andare mo al cinema come proprio bisogno, quasi come bisogno fisico, no? O Cinema, Peppe Voltarelli, dal suo nuovo album La grande corsa verso Liuponopolis, che stiamo presentando quest'oggi qui a Zibaldone. Girano sordate senza cuore, o me ne perduto in mezzo mare, inverno, ma non sono mai su lagna. Hanno visto su e sono caduto. Ehi, remo, o cinema, o cinema, o cinema. Ehi, remo, o cinema, o cinema, o cinema, o cinema, o da da da. Girano sorridate senza amore, uomini legate mani e piedi. Girano ma non sono mai felice, ha visto sole e sono sparito. Ehi, remo, o cinema, o cinema, o cinema. Ehi, remo, o cinema, o cinema, o cinema, o cinema, o da da da. Ba-ba-ba-ya, ba-ba, ba-ba-ba-ya, ba-ba. Guardo mon in faccia e non mi spagna mai rinascere. Signe solia, che tegna capa fresca e voglio dire solo cinema. Cinema, secondo brano che vi proponiamo di Peppe Voltarelli, che ci sta accompagnando qui a Zibaldone questo pomeriggio. Peppe, a proposito, prima non te l'ho domandato, ma la prossima volta che magari vai nella tua queridissima Buenos Aires a suonare, sì, andrai anche a Lupionopolis o no? Beh, il prossimo viaggio in Sud America di sicuro devo andare a Lupionopolis, perché voglio portare una copia di questo lavoro agli amici del supermercato. Sì, voglio chiedere a loro se mi fanno fare almeno una giornata di prova al supermercato. Poi... Beh, insomma, diciamo anche agli ascoltatori che se vogliono cercare questo, come si chiama, supermercato Voltarelli? Supermercato Voltarelli, sì, supermercato Voltarelli, si trova su Instagram. Fanno dei video molto belli, no? Sì, sono attivissimi, vendono di tutto, ma poi è bello perché è una sede unica, quindi non è proprio assolutamente seriale, capito? È proprio non è un franchising, unica. Ecco. No. Beh, ecco, insomma, magari il prossimo anno ti vedremo in uno di questi video insieme ai lavoratori del supermercato, sarebbe molto bello. Sì, mi devo fare dare una divisa anch'io. Ascolta, Peppe, a proposito, insomma, ci hai parlato di questa registrazione a New York con diversi musicisti. Chi ti ha accompagnato in questo album, nella registrazione? Che musicisti c'erano con te? Allora, in primo luogo c'è stata la supervisione di Simone Giuliani, che è un mio caro amico pianista che vive in America da molti anni, adesso è basato a Los Angeles, che ha curato tutti gli arrangiamenti e la produzione artistica. E Simone ha seguito anche proprio la parte del gruppo, quindi con lui si è formata questa band dove praticamente di cui ne fanno parte il bassista Devin Hoff, il batterista Stefan San Juan, Mauro Refosco alle percussioni, poi ci sono stati due ospiti, Eleanor Norton al violoncello e Doug Wieselman al clarinetto, alle chitarre Jack Owen, chitarrista molto bravo, e insomma questo. Poi c'è stata come ospite Amy Denaio alla voce in un brano, che è una cantante di Seattle, mia amica da molti anni, leader dei Tipton Saxophone Quartet. E questo gruppo si è formato praticamente, si è costituito la settimana prima delle registrazioni per un concerto in questo club di Brooklyn che si chiama Lunatico Bar, e due giorni dopo siamo entrati nell'East Side Studio di Marco Urselli per registrare. Quindi abbiamo registrato tutti dal vivo insieme. E è stato molto bello, perché è stato un po' un rivivere una modalità di registrazione che, come si viveva negli anni 70, quando si registrava tutti insieme. E devo dire che siamo stati anche molto fortunati, perché poi si sente nel disco questa sorta di vibrazione proprio fisica del lavoro, ecco. Non c'è, ci sono veramente pochissime sovrincisioni, ma veramente pochissime, e quindi c'è stato un bel feeling con loro. Abbiamo trascorso tanto tempo insieme, insomma, un bellissimo studio all'Over East Side. E Simone, devo dire, ha fatto un gran lavoro di produzione, di arrangiamento, i brani sono molto elaborati, insomma, sono molto contento di questa cosa, perché a me piace comunque che le mie canzoni vengano lavorate, trasformate e rese anche diverse dal lavoro degli altri. Ascolta, prima parlavamo della tua carriera ventennale, parliamo ormai da solista, perché ecco, prima ci sono altrettanti anni con il parto delle nuvole pesanti praticamente. Insomma, una carriera solista che è cominciata discograficamente nel 2008, quando uscì Distratto ma però, poi L'ultima notte a Malastrana, che fu anche Targa Tenco, poi c'è stato Lamentarsi come ipotesi, disco che avevi presentato già anche qui a Barcellona e a Zibaldone nel 2014, dicevamo. E poi hai lavorato su Otello Profazio con quel disco meraviglioso, anche questo, se non ricordo male, Targa Tenco. Otello canta Profazio, del 2016. E poi più recentemente hai vinto un'altra targa, tra l'altro, esatto, con Planetario, che è un altro disco di viaggio, ecco, in modo diverso, viaggiare con le canzoni, con tantissime collaborazioni e duetti, con, insomma, artisti come Silvio Rodriguez, come Adriana Varela, Joan Manuel Serrat, insomma, Amancio Prada, grandissimi nomi, ecco, soprattutto del mondo spagnolo e latinoamericano. Ecco, ora invece con questo disco torni a un disco, diciamo, dove non canti gli altri o non canti con altri, ecco, o entrambe le cose, ma torni, diciamo, a brani tuoi, ecco, anche alla tua terra, però appunto ripensata, ce lo dicevi, a partire da un'identità che è sempre cambiante. Ecco, che cosa c'è in realtà nel Peppe Voltarelli di questo 2023, della grande corsa verso Liuponopolis, rispetto per esempio al Voltarelli di Un distratto ma però, il Voltarelli di Ultima notte a Malastrana, ecco, quando avevi cominciato da poco, per così dire, la tua carriera da solista? Beh, sicuramente una cosa che noto quasi quotidianamente è questa sorta di desiderio di andare più in profondità, di non accontentarmi dell'apparenza delle cose, della superficie. Quindi anche in questo lavoro mi rendo conto che c'è stata un'estrema libertà espressiva che ho maturato giorno dopo giorno, senza però farmi influenzare molto da quello che succedeva intorno a me. Cioè, come se mi fossi in questi anni reso conto che è molto importante procedere con la propria velocità, muoversi scavando in quello che è proprio l'istinto personale, che alcune volte ti fa fare anche delle cazzate, voglio dire, no? però è una roba che ti mette molto alla prova a livello emotivo. A me, per esempio, il lavoro con Planetario mi è servito molto, perché quando canti le canzoni di altri autori, e almeno lo sforzo principale è quello di entrare nel mondo di quell'autore con il tuo mondo, no? E quindi entrare in relazione così, mentre nella scrittura tua originale poi diventa invece una sorta di presa di posizione in primo piano che non ha nessuna mediazione, cioè che non vuole nessuna mediazione, no? E quindi un linguaggio diretto, anche molto sintetico. E poi questa scelta di cantare in dialetto proprio è un modo di dire questa è la mia anima, e comunque è viva e non accetta il compromesso che il mondo, comunque i media, la vogliono eliminare perché non è la lingua ufficiale, perché è una lingua minoritaria, eccetera, eccetera. Cioè è un modo di dire, proprio di affermare una volontà di autodeterminazione, anche un po' individualista, diciamo, ecco. Però comunque so che non è una lingua individualista perché c'ha un piccolo popolo dietro, e non è soltanto un popolo di tipo geografico, ma anche un popolo proprio di sentimento, no? Che segue, diciamo, quello che esprime poi l'artista con la sua canzone. Ci siamo ascoltati alcuni di questi brani, insomma, che l'hanno dimostrato molto bene. Andiamo ad ascoltarci una terza canzone, si chiama Spremuta di limone, ce l'ascoltiamo, dopo magari tu ci racconti qualcosa su questo brano. Lido, lido, lido. Lido, lido, lido. Lido, lido, lido. Lido, lido, lido. Parole immaginate per te in una stanza stretta con il soffitto basso e le pareti rosse. Io mi perderei, tu allontanarti da me. Un gesto incomprensibile minaccia dal profondo la mia stabilità. Cerco ancora il sole, ma il sole qui non c'è. Spremuta di limone, no grazie, io bevo solo te. Canzoni scritte apposta per te. Illuminare con il gusto e scomparire e rinnovarsi mai. Io non ti perderei, tu allontanarti da me. Un gesto irresponsabile minaccia dal profondo la mia stabilità. Cerco ancora il sole, ma il sole qui non c'è. Spremuta di limone, no grazie, io bevo solo te. Cerco ancora il sole, e il sole cerca me. Spremuta di limone, no grazie, io bevo solo te. Di limoni abbandonati è la forza spregiudicata di un braccio che, dopo aver tagliato il limone, spreme, spreme, spreme, spreme, fino a farci diventare diversi, più seri, più acidi, più alti, più meravigliosamente aderenti alla nostra felicità. Cerco ancora il sole, il sole qui non c'è. Spremuta di limone, no grazie, io bevo solo te. Ma cerco ancora il sole, e il sole cerca me. Spremuta di limone, no grazie, io bevo solo te. Thank you. spremuta di limone, Peppe, te la lascio presentare a te dopo, insomma, una postfazione, come si direbbe in un libro, insomma, gli ascoltatori l'hanno già sentita, è un brano molto ironico. Beh sì, il limone è un frutto molto presente nella nostra quotidianità e nella nostra anche memoria di mediterranei, di meridionali, ecco, di italiani, questo frutto così essenziale, così importante, così bello, che a un certo punto però ti accorgi che potrebbe essere anche un campo, una piantagione di limoni abbandonata, che cadono perché nessuno li raccoglie, no? E quindi c'è questa sorta di anche sempre, anche in questo pezzo, nella parte finale, quando dice per farci sentire più alti, più acidi, più meravigliosamente aderente alla nostra felicità, no? C'è sempre un pizzico di acre, no? Di acidità, di questo essere un po' sempre in una direzione opposta all'agio, no? Alla corrente naturale delle cose. E questo è il limone. La spremuta di limone è bello perché poi c'è il gioco di ironico con la storia d'amore, no? E quindi era un po' una cosa divertente, diciamo. Sì, sì. Ascolta, il mare è sempre protagonista nei tuoi dischi, no? Anche in questo caso abbiamo aperto proprio con la canzone che dà il via a questo disco, Mare Nero, ma poi ce n'è anche un'altra, Marinari Perduti, ecco. Non è la prima volta, no, che il mare alla fine è lì, no? È qualcosa che rimane. Beh sì, io sono cresciuto in un piccolo paese di fronte al mare, quindi c'è questo rapporto molto forte con il mare, che non è soltanto un fatto oleografico, paesaggistico, ma è proprio una cosa che per noi credo che sia essenziale proprio nel pensiero, ma non è un fatto fisico, nel senso, io non sento il bisogno di andare al mare, io sento il bisogno di sapere che il mare c'è, perché c'è sempre stato e continuerà a esserci come luogo dove le cose si trasformano, dove le cose si muovono, dove le cose vengono diluite, dove si può ovviamente anche perdersi, no? Mi piace molto anche questa idea del mare come luogo cattivo, diciamo, che ti può fare del male, ecco, che ti può rapire, che ti può uccidere, ecco, questa cosa qua infatti è come se fosse un po' una divinità pagana, no? A cui mi piace rivolgermi anche nei miei momenti di difficoltà, spesso mi rivolgo a questo tipo di entità e quindi ritorno ovviamente. Un Poseidone, no? Che rimane lì e che magari, insomma, come a Ulisse, a volte gli gioca anche qualche brutto scherzo, no? A volte aiuta e a volte no. Certo. Ascolta Peppe, noi chiudiamo con una canzone che si intitola Carizzi, che è una canzone, tra l'altro è anche la chiusura di questo tuo album, molto intima. Sì, sì, è una ballata che ho scritto proprio durante le mie 3 settimane a New York, perché avevo perso una persona molto cara in quel periodo, che era la madre della mia compagna, a cui comunque pensavo che sarebbe stato bello dedicare insomma, un'idea, un pensiero, una canzone. Quindi su quell'onda di quella perdita lì è nata questa voglia di raccontare in maniera dolce una carezza, insomma un'emozione molto intima, speciale, quelle cose quasi che non hanno voce, diciamo. Con Carizzi noi ci salutiamo, Peppe, grazie mille di essere stato con noi un'altra volta. Grazie Steven, saluto tutti gli amici di Zibaldone e spero di tornare presto a Barcellona con voi per le nostre notti magiche nella città meravigliosa di Barcellona. Assolutamente, noi ti aspettiamo qua perché insomma ci auguriamo davvero che verrai a presentare dopo il tour estivo in Italia anche questo disco, almeno insomma nei prossimi mesi anche a Barcellona, la grande corsa verso Liuponopolis. Peppe, in bocca al lupo con questo disco e a prestissimo. Grazie, ciao Steven, grazie. Carizzi, questo è il brano che ci andiamo ad ascoltare ora. I sogni non finiscono, i degna città mia, da gente persa e fragile, luce lucente brillano. I labbra tua sorridono senza tempo e senza età. Chi può fermare un vento che si è rubata l'anima? La storia tua è una favola, sei sempre stata l'unica. Davanti al mare a ridere, senza tempo e senza età. Ha rubato l'anima, ma quando sole se ne va, tu non già dire mai. L'amore di inti va sedate e ricarizze mai scordate. Si sempre ca, tu si sempre ca, si sempre ca, si sempre ca. Zibaldone. Radio Contrabanda. Nel box che non ho, finalmente morirò. tira un lancio dal balcone, non lo posso proprio fare, col culo che ho come Superman vivrò, che è un altro grande lunedì. Voglio morire, anche se oggi è martedì. Questa vita è solo un lungo lunedì di merda. Voglio morire avvolto dal dolore, voglio morire, allora morirò. Dovrei lanciare sotto al metro, così Roma bloccherà. Andrei sul giornale e mi farei odiare da tutta la città. Che bel finale che sarà. Voglio morire avvolto dal dolore, voglio morire, allora morirò. E beh, sentite che era una registrazione live, volutamente live, questa nuova canzone Banzo di Giancane, che tra l'altro ha anticipato il suo nuovo disco che esce proprio quest'oggi, 9 giugno. E una canzone comunque un po' depressing, no? Beh, diciamo che è in linea con lo stile di Giancane, perché pensiamo comunque, questo pezzo si chiama Voglio Morire, l'album da cui è tratta la canzone si chiama Tutto Male, e un disco precedente di Giancane si chiamava Ansia e Disagio. Però ecco, non prendete le lamette, perché comunque avete sentito questo brano, Giancane ha sempre una vena piuttosto ironica che stempera questo pessimismo cosmico, e poi comunque ha chiesto il permesso a Sua Santità e non gliel'ha accordato al momento, quindi diciamo che ha svolto tutto secondo tutti i crismi, ecco. Sì, sentite che vi stiamo proponendo alcune news, davvero news della musica italiana, perché il disco di Peppe Voltarelli, lo ricordavamo, è uscito alla fine di maggio. Abbiamo aperto con Gli Arpioni, che è un disco, tra l'altro forse non l'abbiamo detto in apertura, Banzo, che è uscito proprio all'inizio di questo mese di giugno, l'omaggio a Iannacci. Il 3 giugno. Giancane esce oggi, e se non sbaglio anche il nuovo disco di Maria Antonietta sta uscendo proprio in questi giorni, dico bene? È recentissimo, perché è uscito il 26 maggio, e ha un titolo molto bello, che è La Tigre Assenza. Non male, è molto bella anche la copertina, e noi Banzo da questo disco proponiamo una canzone. Sì, che si chiama Viale Regina Margherita, e io mi sono chiesto onestamente di che città stesse parlando, perché esiste in varie città d'Italia un Viale Regina Margherita, a Torino si chiama Corso, io avevo pensato a Torino inizialmente, però no. Io credo sia Roma, però dobbiamo controllare, magari fallo e dopo lo diciamo dopo, Maria Antonietta dove vive? Avevo controllato prima, non ho trovato nulla, morso da questo dubbio, assalito da questo dubbio, probabilmente è Roma, è il primo risultato che mi viene su Google. Io credo che sia Roma, effettivamente. Andiamoci ad ascoltare Viale Regina Margherita dal nuovo album di Maria Antonietta. Eterna. cioè questa è la mia bocca. Quando è che i miei segreti non faranno più ombra? Ma non lo sai che il prezzo è ancora troppo alto. Chi sono io? Per dirti non lo pago. Ma qui nessuno finge bene quanto me. L'avevo la mia buona educazione. Così anch'io affondo nella melma, senza le scarpe. Baby, mi ricorderai. Ora abbiamo in collegamento telefonico con noi per questa seconda parte dello Zibaldone Paolo Gerbaudo, sociologo teorico politico alla Scuola Normale Superiore di Pisa e al King's College di Londra, autore di numerosi saggi tra cui Partiti Digitali sulla trasformazione appunto dei partiti, ma anche poi altri saggi sui movimenti sociali, I Partiti Digitali uscito per I Tipi del Mulino nel 2020, ma anche autore di un più recente libro uscito lo scorso anno in Italia per Nottetempo, Contro controllare e proteggere il ritorno dello Stato, e uscito più recentemente anche in traduzione spagnola, Controllare e proteggere il ritorno dell'Estado, per I Tipi diverso libro, su un volume che si è presentato proprio ieri sera alla Central, la libreria Central del Raval. Paolo, innanzitutto benvenuto a Zibaldone, un piacere averti con noi. Anche per me. E parliamo di un tema davvero di grande attualità, ma soprattutto comincerei con una riflessione che è alla base un po' del tuo libro. Insomma, lo Stato è ritornato, si diceva soprattutto, no, nei lunghi anni 90, nell'epoca d'oro del neoliberalismo, insomma, lo Stato è finito, lo Stato è in crisi, lo Stato insomma è in declino. In realtà ci stiamo rendendo conto negli ultimi anni, tra pandemia, guerra, inflazione, crisi varie, permacrisi come le chiamano alcuni, che in realtà insomma lo Stato è vivo e presente. Sì, siamo di fronte a un classico momento di rivelazione delle dinamiche reali, no, della politica degli ultimi decenni, in cui risalta come questa narrazione secondo cui lo Stato aveva perso il suo potere, secondo cui eravamo entrati in un mercato globale in cui tutti i conflitti tra diversi interessi si potevano risolvere commercialmente, quanto questa fantasia fosse sbagliata, non fosse corrispondente alla realtà. Prima di tutto, da partire dalla crisi del 2008, sempre più volte si è rivelato come nei momenti difficili il mercato dipendesse dallo Stato, no? Ovviamente le banche che crollano, i bailout, quanto il mercato stesso fosse in realtà tutt'altro che indipendente, cioè le multinazionali dallo Stato. Pensiamo al caso Prism Gate, no? Il livello profondo di integrazione, ad esempio, delle corporation americane e il governo di Washington, e quanto in realtà gli stati utilizzano anche le multinazionali come sorta di agenti della loro politica, come arme nella loro politica globale, nella loro geopolitica. Queste rivelazioni sul continuo ruolo dello Stato, sulla continua importanza dello Stato, sono solo diventate più evidenti con la pandemia. Dal 2020 in poi non è stato un'enorme, come dire, lezione, diciamo, pubblica rispetto a come funziona la politica, no? Ovvero che in momenti difficili l'intervento dello Stato per proteggere i cittadini, per garantire sicurezza, per garantire ordine, ordine buono o cattivo, diventa centrale per l'azione politica. Quindi la tesi centrale del libro è che la politica contemporanea, sia dal punto di vista dell'immaginario, ma anche proprio dal punto di vista delle pratiche politiche concrete, le decisioni economiche, è segnata da questo neointerventismo dello Stato. Pensiamo ai piani pubblici, PNRR, Inflation Act negli Stati Uniti, piani di cambiamento climatico, no? Siamo in un'era di nuovi piani e in un'era di ritorno dello Stato piano che si pensava archiviato. Ascolta, a questo proposito, e facendo un piccolo passo indietro a quelli che sono stati un po' gli ultimi 30 anni, 40 anni approssimativamente, Clinton nel 2000, in una visita in Vietnam, riguardo alla globalizzazione, diceva che era una forza della natura come il vento e l'acqua. Insomma, noi siamo cresciuti, quelli della nostra generazione, no, negli anni 90, almeno fino alla crisi del 2008, con questa idea della inevitabilità della globalizzazione. Ecco, è ancora così o è cambiato qualcosa? E se sì, che cosa è cambiato? È molto interessante come, diciamo, globalizzazione e mercato sono andati sempre in tandem e come la naturalizzazione della globalizzazione abbia sempre specchiato la naturalizzazione del mercato, ovvero entrambe vengono presentate appunto come qualcosa di inevitabile, come una forza naturale, no, che era indipendente dalle decisioni politiche, per quanto, come sappiamo, leggendo la storia politica recente, fossero entrambe il frutto di precise decisioni politiche, di precise volontà politiche. Quella che abbiamo visto, come sappiamo, non è la prima globalizzazione. Se leggiamo autori come Wallerstein e come Arrighi, sappiamo che ci sono diversi cicli di integrazione globale del sistema capitalista, con momenti di picco e poi momenti di caduta. Sicuramente è stato un momento di globalizzazione, diciamo, eccezionale, un livello di integrazione economica planetaria mai conosciuto precedentemente nella storia umana, però veniva erroneamente presentato come una fase duratura, no? Anche come il secolo americano, come gli statunitensi pensavano sarebbe stato, no? Questo secolo. Pensavo in qualche modo una eternizzazione della cosiddetta grande moderazione, ovvero quella fase di stabilità delle fondamentali macroeconomici, bassi tassi di interesse, bassa inflazione e così via, quando in realtà questa condizione era garantita da condizioni politiche, di politica internazionale eccezionali, ovvero la supremazia incontrastata degli Stati Uniti dopo il crollo dell'Unione Sovietica e del blocco sovietico, prima che la Cina guadagnasse il potere che adesso, e in quel contesto era una sorta di illusione ottica, ovvero era un sistema di scambi internazionali controllato fortemente dagli Stati Uniti, che creava l'impressione che veramente in qualche modo stessimo muovendo verso una polity globale, no? Verso una grande sorta di società ecumenica in cui non c'erano più confini. Però appunto di un'illusione si trattava. Adesso sì, con la crescita della Cina, la crescita degli altri attori, si torna in qualche modo alla normalità della politica internazionale, no? Quindi con diverse aree, diverse sfere di influenza, forti frizioni tra diversi attori e rivalità tra le potenze, no? Come la definirebbe Arrighi, che è la caratteristica tipica proprio dei momenti di transizione egemonica. E tu parlavi prima di neostatalismo, no? Che è un po' appunto anche la tesi di fondo, come ci accennavi del tuo libro. Di che si tratta in realtà? È un ritorno allo stato keynesiano dei 30 gloriosi, il 45-75, insomma, il welfare state per tutti all'interno di delle frontiere statali? È qualcosa di diverso? Che cosa c'è di differente rispetto al passato? Dato che il libro, prima di tutto, è sul discorso politico, no? E fondamentalmente si condensa in un consenso di minimi rispetto alla necessità di un maggiore intervento dello Stato, fronte fondamentalmente alle emergenze, no? Alle emergenze continue che poi diventano questa permacrisi, questa policrisi o permacrisi di cui parlavamo prima. Quindi il riconoscimento del fatto che siamo entrati in un'era in cui i pericoli esterni di carattere naturale, di carattere geopolitico, di carattere energetico, creano una condizione di instabilità e di incertezza che rende necessario un interventismo più forte dello Stato. Un consenso di minimi, nel senso che poi un consenso che è trasversale in qualche modo, anche se si manifesta in maniere contrastanti sul lato sinistro, no? E sul lato destro dell'arco politico. È uno Stato, non è una riedizione dello Stato socialdemocratico. È vero che, come ad esempio l'OCSE ci ha raccontato, durante la pandemia, proprio per gestire l'emergenza, le prestazioni sociali sono temporaneamente aumentate del 250-260%. È vero che in alcuni paesi, ad esempio, sono stati introdotti misure come il reddito di cittadinanza, l'ingresso minimo vitale. C'è un elemento in certi paesi, quantomeno, come dire, si comincia a mettere in dubbio se questa traiettoria di progressivi tagli alla spesa sociale sia stata positiva, c'è un tentativo quantomeno di frenare quel processo. Però direi che l'elemento più evidente è piuttosto quello dell'interventismo dello Stato sulla produzione, sulla sicurezza, legandola l'economia alla politica. Pensiamo ad esempio al conflitto tecnologico tra Cina e Stati Uniti e come viene completamente ridisegnato il rapporto tra Stato e privato, dove il famoso discorso di Jake Sullivan, il National Security Advisor di Biden, in qualche modo il mainstream della politica americana riconosce qualcosa che dovrebbe essere agghiacciante per gli economisti che hanno proposto queste teorie, ovvero che le teorie neoliberiste sul libero mercato hanno finito per mettere in pericolo la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, rilocalizzando comparti produttivi strategici nel caso di un conflitto globale, no? Sappiamo che paesi come gli Stati Uniti e l'Europa adesso non sono provvisti della base industriale necessaria, certo, neanche alla produzione di munizioni d'artiglieria per sostenere un conflitto di settimane, di pochi mesi. Quindi questo è forse l'elemento che crisi. In qualche modo io dico che c'è un ritorno dello Stato in senso generale, ci sono diverse fattispecie poi dello Stato, no? Diversi volti dello Stato che si manifestano, ma l'aspetto in qualche modo più trasversale, anche più bipartisan, potremmo dire, è questo ritorno, questo riconoscimento della politica industriale. Se Gary Becker, il famoso premio Nobel dell'economia, diceva che la migliore politica industriale è nessuna politica industriale, oggi c'è un riconoscimento che lo Stato deve intervenire sulla politica industriale anche come necessità di sicurezza nazionale. Diciamo che, o almeno potremmo dire che è anche un ritorno in realtà non solo dello Stato ma anche della politica intesa come gestione della cosa pubblica rispetto, diciamo, a quello che è l'economia, ossia il mercato? Sì, sicuramente questo è un modo di affrontare la questione e penso che, diciamo, che il libro è fondamentalmente un lessico politico, no? Nel senso che poi è organizzato all'interno con i tre capitoli diciamo più di discussione, di analisi, che sono su tre termini che secondo me condensano un poco il vocabolario politico contemporaneo, che sono sovranità, protezione e controllo. E nell'idea di sovranità dibattuta fortemente, no? Poi la polemica sul sovranismo, cosa sia questo sovranismo, però la cosa fondamentale dell'idea di sovranità, che è un'idea molto polisemica e ambigua, è proprio l'idea di supremazia, e in maniera specifica la supremazia della politica, la supremazia del potere politico su qualsiasi altro potere, e incluso il potere economico. Questo è in realtà, come dire, un elemento di saggezza che trovavamo anche in pensatori liberali, no? Lo stesso Adam Smith diceva che, insomma, è importante l'opulenza, è importante la ricchezza, è importante la sicurezza, perché senza sicurezza la tua opulenza può sparire da un momento all'altro. È ovvio che in momenti di vacche grasse, come quelli dell'alta globalizzazione, gli anni 90, gli anni 2000, non è che lo Stato fosse scomparso, ma si poteva permettere un'azione più discreta, in qualche modo più mediata, più indiretta, mentre quando ci troviamo di fronte a situazioni come, non so, lo shock del gas che abbiamo visto, o il conflitto su tecnologia, su microchip, o un corso agli armamenti come quella che sta avvenendo in Europa per non parlare poi ovviamente di stati in guerra come l'Ucraina, certo, e la Russia, certo. No, questa, sappiamo che queste situazioni, sappiamo che da Hegel e altri pensatori, che sono purtroppo anche esattamente le situazioni in cui il Leviatano, che in tempi normali, diciamo, è mediato da mille altri livelli, filtri e forme di società civile, si presenta invece in maniera più diretta, in maniera più visibile. Facciamo una piccola pausa musicale e poi rientriamo di nuovo insieme a te. Andiamo ad ascoltarci un brano del nuovo disco di Vinicio Capossela, All You Can Eat. Mangiati il sistema, mangiati il low cost, divorati la terra, divora il permafrost. C'è la convenienza, c'è la quantità, non devi più scegliere, sei la divinità. E se non è tutto quello che vuoi, è tutto quello che vuoi. Non c'è più limite, puoi esagerare. Facciamo 150, giro pizza te ne porto finché non mi dici basta. Mi scasso qui in paranza, mi sprizza 3,50. Mi sfaldo di Big Mac, di nigiri sauce. Bevi quel che puoi, mangia tutto il mall. Gastro ladra digerente, in mezzo alla gente. Cefalo fode nella mente, non mi importa più di niente. Fatto 30, facciamo 150. Se tanto tutto uguale, se non conta più studiare, se non conta più sapere, se siamo in rilevanza, se non c'è differenza nella terra dell'abbastanza, se non c'è principio né speranza, se non c'è principio né speranza, se non c'è principio né speranza, allora mangia. Vinicio Capossela, ovviamente, un brano che tra l'altro si collega anche un po', se vogliamo, alle riflessioni che stiamo facendo qui con Paolo Gerbaudo a partire dal suo ultimo libro, Controllare e Proteggere, il ritorno dello Stato, uscito da poco anche in edizione spagnola per Verso Libros qui in Spagna, presentato ieri, lo dicevamo, alla Central del Raval. Paolo, stavamo parlando di appunto del neostatalismo che tu delinei un po' nel tuo libro. E una questione che mi sembrava interessante affrontare o almeno approfondire un po' è uno dei termini che si trova proprio anche nel titolo del tuo libro, ossia controllare, perché quando pensiamo, no, al modello keynesiano o anche il neo-keynesiano, pensiamo soprattutto alla protezione, no, il welfare state. Ecco, ma qui insomma tu dai centralità anche a un altro termine, che è quello di controllare, e penso anche un po' al passato. Ovviamente le analogie sono sempre da prendere con le pinze, però ecco, se pensiamo a un secolo fa, i regimi totalitari, il controllo era una questione chiave, una questione cruciale di quei modelli di Stato, insomma la Germania nazista, ma anche la Russia di Stalin, l'Italia di Mussolini. Insomma, ci troviamo di fronte a un rischio di regimi totalitari 3.0, per dirla così? La parola controllo è una parola veramente interessante, perché è centrale per il funzionamento dello Stato e evoca tutta una serie di funzioni dello Stato che hanno a che fare con verifica, ispezione, punizione, ma anche direzione, organizzazione, programmazione. Una delle scoperte che ho fatto scrivendo questo libro è l'etimologia di questa parola, che non è una parola né greca antica né latina, ma è una parola che viene dalle corti normanne in Inghilterra, proprio nel momento in cui si forma una burocrazia, e si riferiva all'operazione dello scriba, diciamo del burocrate di corte, quando andava a verificare le informazioni che aveva a disposizione in archivio, diciamo, e le nuove informazioni che raccoglieva sul territorio, ad esempio a contatto con qualcuno che doveva pagare le tasse e così via. Il controllo, chiaramente, siamo molto coscienti di tutte le forme negative e repressive di controllo, no? Controllo come sorveglianza, controllo come repressione, controllo come censura. Inoltre, durante la pandemia abbiamo avuto anche, come dire, mostra di vari controlli sanitari, controlli pandemici. Però un aspetto del controllo come direzione, io in quel capitolo parlo ad esempio della metafora della nave, della nave dello Stato, no? In Platone, è centrale anche per riscoprire questo, o per cercare di capire questo ritorno alla pianificazione che vediamo ogni giorno, no? Il nuovo stato pianificatore. Quindi un'idea che era completamente aliena ai neoliberali, secondo cui c'era una sorta di piano inclinato, per cui se avevi un minimo di pianificazione saresti inevitabilmente scivolato verso un esito autoritario, mentre oggi, specie sul cambiamento climatico e la transizione energetica, viene rivendicata, diciamo, più o meno da tutti, sicuramente più a sinistra che a destra, ma in qualche modo anche la destra deve farci i conti, il fatto che è necessaria una coordinazione strategica che può arrivare solo dallo Stato, che non è possibile costruire un'economia ordinata, un'economia efficiente, lasciando le decisioni, come dire, alle forze primigenie del mercato. Quindi questo è uno dei diversi termini in cui una necessità fondamentale di, diciamo, di ordine, un certo principio di autorità diventa la posta in gioco, non il conflitto tra destra e sinistra. Ascolta, un'altra questione importante è la relazione tra lo Stato e le entità sovranazionali, e penso qui soprattutto anche all'Unione Europea. Ecco, che differenze ci sono rispetto, diciamo, ai 30 gloriosi del neoliberalismo in questa nuova fase? Ossia, come vedi le relazioni, il ruolo dello Stato, ovviamente, in un mondo che è molto diverso rispetto a quello di 60-70 anni fa? La realtà della politica internazionale ci insegna che il principio della sovranità nazionale, no, in pratica si applica in maniera molto discontinua, molto simmetrica, ovvero ci sono oggi solo pochi stati che possono rivendicare di essere effettivamente sovrani, e questi sono, no, i mega stati, gli Stati Uniti, la Cina, probabilmente altri stati dei BRIC, lo stanno diventando, la Russia, forse in parte il Brasile. L'Unione Europea è in realtà in una condizione molto particolare, molto anomala, difficile da inquadrare in questo contesto, nel senso che da un punto di vista di realismo politico è chiaro, no, a molti cittadini e cittadini europei che l'unico modo per contare qualcosa sul tavolo dei conflitti globali, no, della politica globale, è una presenza unita, coordinata degli Stati europei attraverso l'Unione Europea. Al contempo sappiamo che in realtà i diversi stati-nazione continuano a fare un po' testa a sé e continuano anche spesso a pestarsi i piedi. Basta vedere quello che è successo negli ultimi mesi rispetto al rapporto con la Cina, no? In cui ci sono stati Scholz, poi Macron, Sanchez, che andavano ciascuno a Pechino, fondamentalmente cercando di essere il pontiere con Pechino e in qualche modo cercando ciascuno di determinare secondo una linea che gli conveniva di più da un punto di vista nazionale. Questo quello che ci dice è che la principale, io penso il principale scoglio per un'Unione Europea che voglia essere effettivamente un attore politico più assertivo e più credibile è una questione di anche culturale, di identificazione effettiva dei cittadini europei in una in un'entità no, federativa, un'entità di più alto livello. Rispetto a questa questione, l'ossessione sulla continua espansione dell'Unione Europea, secondo me, è una relazione di trade-off, ovvero una relazione, come dire, di correlazione inversa rispetto alla capacità di guadagnare un certo grado di densità e un certo grado di riconoscimento di un destino comune. Nel senso che c'è un core dell'Unione Europea dove probabilmente sarebbe possibile pensare a un livello di integrazione politica più forte, però con un'Europa che continua a guadagnare altri stati, che si allarga sempre più, dove vengono meno anche alcune basi, come dire, comuni di tipo culturale, valoriale, diventa veramente difficile pensare che gli stati cedano le loro decisioni di politica economica e anche di politica internazionale. Ascolta, invece prima parlavamo anche delle multinazionali, soprattutto all'inizio, no? Insomma, multinazionali che sono sempre più grandi in questi ultimi decenni, no? E penso anche alle tecnologiche che hanno, no, hanno cominciato ad avere, soprattutto all'inizio di questo millennio, un peso sempre maggiore, no? Non solo Silicon Valley, ma anche Silicon Valley. Ecco, questo poi si collega anche a tutta un'altra questione che ha a che fare anche con l'intelligenza artificiale. In questi ultimi mesi se ne parla molto. Ecco, tu come vedi qui il rapporto dello Stato? Evidentemente uno Stato che vuole controllare e proteggere, come tu dici, quando abbiamo appunto non solo dei social network che fanno quello che fanno, ma anche delle imprese multinazionali che tra l'altro poi spesso non pagano le tasse in nessun paese. Ecco, insomma, come questa interrelazione di questo neostatalismo con questi mostri globali che appunto 60-70 anni fa non esistevano in questi termini. Sì, è una relazione, diciamo, particolare che sembra a volte come contraddire l'idea del potere dello Stato. Però sappiamo che se Amazon opera o Google opera come operano in Irlanda, no? Usando il paradiso fiscale di Irlanda, non è certo semplicemente per una svista, no? Della politica economica dell'Unione Europea o degli Stati Uniti. C'è stata evidentemente, come dire, una decisione sotto banco, ma con un forte consenso presso le elite statunitensi, europee, che è fondamentalmente quello è il modo in cui viene consentito a queste compagnie di operare. Cioè, che cambiasse da un giorno all'altro la volontà politica, sappiamo che queste cose possono cambiare nella storia. O pensiamo anche compagnie cinesi, nonostante, come dire, la Cina sia guidata da un partito comunista, utilizzano i paradisi fiscali per avere vantaggi fiscali, no? E quindi bisogna considerare questo, appunto, che le compagnie hanno il loro grado di autonomia, ovviamente, ma operano dentro un campo di azione le cui possibilità sono normate e strutturate piuttosto strettamente da, no, dalle decisioni di politica dei megastati. No? Chiaramente poi invece per molti piccoli stati o stati medi che hanno una sovranità limitata, questi sì, spesso sono come palline, come biglie nel flipper, sì, sì, che vengono tirati da una parte e dall'altra, no? Pensiamo a tanti stati dell'America Latina o dell'Africa in cui le azioni di paesi, di megastati come sfera di influenza e delle grandi compagnie che si afferiscono veramente possono fare e disfare un po' a loro piacimento. Insomma, la cosa interessante è che la tecnologia, in particolare digitale, veniva vista fino a poco tempo fa come una forza che segnava la crisi dello Stato e che, no, come una forza che non si poteva irregimentare e mettere a servizio dello Stato. No, per cui, ad esempio, si parlava spesso di Internet, no? Ci ricordiamo come una cosa, un'entità globale che quindi attraversava i confini, li rendeva inutili. Oggi, al contrario, la tecnologia è esattamente uno degli strumenti decisivi nell'esercizio della sovranità e nello scontro tra diverse sfere di sovranità. No? Cioè, ciascuna delle megapotenze cerca di costruirsi la sua ecologia tecnologica, no? le sue piattaforme, i suoi brevetti, le sue pezzi di catena di valore nei sistemi di produzione, le sue piattaforme, il suo internet, no? Che diventa sempre più uno splinternet, no? che si rompe in diversi internet diversi. Questo sicuramente è un cambiamento, no? di prospettiva, che secondo me anche riguarda la stessa intelligenza artificiale, no? Un altro dei campi di scontro tecnologico e geopolitico tra Stati Uniti e Cina. Non sono solo i microchip in quanto tecnologia generale, che ormai si utilizza dalle lavatrici a qualsiasi altro elettrodomestico, ma in particolare i microchip avanzati, come quelli che produce Nvidia, che sono quelli che sono necessari per poter sviluppare applicazioni di intelligenza artificiale. Eh sì, comunque è una grande questione, un'enorme questione. E chiudo con un'ultimissima domanda, la domanda da milioni di dollari. Che previsioni fai tu in vista del futuro? So che fare previsioni è praticamente impossibile, ma anche tenendo conto un po' di queste, tu ne parlavi prima, no? Le diverse declinazioni di questo neostatalismo, di destra, di sinistra, per riassumerlo così. Insomma, a te, che direzione ti sembra che si stia andando? Ma mi sembra che a livello europeo purtroppo stiamo andando in una direzione estremamente negativa, nel senso che c'era una certa finestra d'opportunità a un certo punto, diciamo, in Italia, Spagna e altri paesi, per un certo ritorno di un interventismo dello Stato che avesse come focus, che avesse come centro d'attenzione un miglioramento delle condizioni sociali, la lotta alla diseguaglianza, la lotta al cambiamento climatico, no? In un senso di nuova socialdemocrazia. Purtroppo la guerra in Ucraina, secondo me, è stato come l'evento decisivo che ha completamente ridefinito il panorama politico e ha ridefinito, no, purtroppo l'orizzonte del continente, favorendo in maniera fortissima la destra. Che è riuscita a trovare una nuova sintesi di allineamento geopolitico, no? Un fortissimo atlantismo in cui si presentano come forza d'ordine, con un trasformismo spettacolare, perché questi erano i fan di Putin, però sono riusciti, secondo me, a trovare una quadra che li mette adesso in posizione molto forte per presentarsi come quelli che difendono l'Occidente, diventa molto difficile per il centro-sinistra continuare a perseguire, come dire, una via politica che si basi semplicemente sulla promessa di migliori servizi pubblici, su migliori sulla lotta al cambiamento climatico, senza anche affrontare la questione del posizionamento geopolitico dei paesi europei e dell'Unione Europea. Negli Stati Uniti, secondo me, in qualche modo, a rispetto di tutto, a rispetto dei limiti enormi dello stesso Biden, ci sono stati anche degli elementi speranzosi, nel senso che c'è un ritorno di una coscienza del bisogno dei servizi pubblici e del ricompensare solo il capitale, ricompensare anche il lavoro, no? C'è anche un ritorno dei sindacati, del movimento dei lavoratori. Però in generale penso che, appunto, la guerra in Ucraina non sicuramente abbia concentrato la questione della protezione sulla questione della difesa, alla fine. Sì, no? Sì, sì. Cioè, tra le diverse articolazioni e significazioni che il termine protezione poteva avere, oggi chiaramente quello centrale è l'idea di difesa e sicurezza nazionale. E che certo non favorisce la sinistra. Assolutamente no, effettivamente. E controllare e proteggere, il ritorno dello Stato, uscito per Nottetempo in Italia lo scorso anno, uscito per Verso Libros in Spagna da pochi mesi. Paolo Gerbaudo, che ci ha accompagnato in questa seconda parte di Zibaldone, ricordo che è sociologo e teorico politico alla Scuola Normale Superiore di Pisa, al King's College di Londra. Paolo, grazie davvero di essere stato con noi. Grazie a te, Steven. Sonorità da film, insomma, chi li conosce li ha riconosciuti subito, i Calibro 35, Etere Taco, spero di pronunciarlo bene, Banzo, anche questo un disco uscito da poco, una canzone, meglio dire, un singolo. Oh, Etere Taco, non so cosa voglia dire questo titolo. Sì, l'album da cui è tratto questo brano si intitola Nouvelle Aventure, e a proposito di non sapere come si pronuncia, ecco un bel titolo francese, è uscito anche questo il 26 maggio, sembra, come il disco di Maria Antonietta, quindi un giorno pieno di novità discografiche. E diciamo, i Calibro sono i Calibro, giustamente come sottolineavi tu, chi li conosce li riconosce molto facilmente perché hanno uno stile che è un autentico marchio di fabbrica. C'è una novità però: al basso entra in questo album Roberto Dragonetti, che vedo, da ricerche che ho fatto, ha suonato con artisti di area più sanremese finora come Diodato e Gammon. Guarda te. Comunque sì, insomma, i Calibro tra l'altro hanno suonato anche da poco a Barcellona. Andiamo subito e però facciamo veramente un volo pindarico, andiamo indietro di una sessantina d'anni. Sentitevi questo brano, lo riconoscerete, però la lingua in cui è cantato è un'altra. No, sì. Il baile del ladrillo, Violeta Riva, su una canzone che ha 60 anni, avete capito, Banzo, che è arrivato il momento della nostra rubrica De Italia Otra Parte, con cui andiamo un po' a scovare, a scoprire, a togliere la polvere dell'oblio da canzoni italiane cantate però da artisti spagnoli o latinoamericani, come latinoamericana è appunto Violeta Rivas. Sì, esatto, questa rubrica che molto spesso ci fa fare un viaggio nel tempo, perché questo genere di operazione, come abbiamo detto altre volte, era più comune negli anni 60-70. Ecco, Violeta Rivas, pseudonimo Steven Tieniti Forte di Anna Maria Francisca Adinolfi, cantante argentina scomparsa 5 anni fa, e ho un aneddoto assurdo. Nel senso, credo che il nome di Violeta Rivas abbia ispirato un personaggio del comico argentino Peter Capusotto, che è noto anche in Spagna per la prossimità linguistica, meno che in Argentina. C'è un personaggio che si chiama Violencia Rivas, che era una cantante di protesta. Ecco, quindi sicuramente ha ripreso il nome di Violeta Rivas per creare questo personaggio. Credo che l'assonanza sia stata rilevata a suo tempo, non sono un genio che l'ha scoperto, ho trovato anche un articolo accademico che menziona questo riferimento. Interessante. Bravo Banzo, non la sapevo questa cosa. E certo, la versione, diciamo, la voce è diversa, è un po' più dolce, insomma, questa versione di Violeta Rivas rispetto a quella di Rita Pavone. Di Rita Pavone, esattamente, che usciva proprio 60 anni fa. Non è necessariamente un male. No, è una constatazione. E comunque, Steven, sai questa rubrica cosa ci porta? L'adattamento, perché devo parlarti di un dettaglio di adattamento che è molto curioso, cioè il titolo, che è Il baile dell'adagio, è tradotto letteralmente Il ballo del mattone, sì, però appunto si perde la rima, passione mattone in italiano, e in spagnolo è Sencillo l'adagio, dice con te che sei la mia passione, ballo il ballo del mattone, e in spagnolo diventa Calmarte es muy sencillo, perché con te ballo il baile dell'adagio, ed è... Sì. qualcosa di assolutamente fantastico. Ascolta, però quest'oggi facciamo un bis con dei Tele Otra Parte e andiamo a scovare un'altra canzone che è mitica degli anni 60, insomma, e lo è ancora, Sapore di Sale, in una versione in questo caso di rumba catalana. Esatto, perché si tratta di un rifacimento di Peret, che della rumba catalana è stato l'inventore e l'autentico dio in terra. In Italia non è molto conosciuto, però vivendo in Catalogna e soprattutto a Barcellona, diciamo che Peret è un po' nell'aria che si respira, è un artista che ha lasciato un marchio fortissimo e appunto si nota anche in questa canzone, perché Sapore di Sale la conoscete tutti, ma sicuramente non l'avete mai sentita così. E ce la andiamo a sentire, eccola qui allora, Peret, Sapore di Sale. Sapore di sale, sapore di mare, que tiene en tus manos, que tiene en tus labios, cuando sales del agua y te quedas soñando, cerca de mí, cerca de mí. Sapore di sale, sapore di mare, sabes amargo, a cosa perdida, a cosa lejana, de ese mar y esa playa, donde el mundo es distinto, distinto de aquí. Ay, ay, ay, ay, sabor, sabor de sale, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, sabor. Miro en el agua, mira, mira que como te sigo yo mirando, y yo me quedo en la playa con el sol que me quema. Después cuando vuelve y en la arena te duerme, acerco a tu lado, te estrecho en mis brazos y noto en tus besos el sabor de sabe, sabor de mare. Saremmo noi senza Leopardi, la rubrica di libri del nostro programma. Avete sentito la voce stentoria del nostro Banzo che ci introduce la rubrica di libri del nostro Zibaldone. E quest'oggi, Banzo, parliamo di un libro, è un'eccezione forse fino ad ora, magari non lo sarà in futuro, un libro che non è uscito in Italia, ma è un libro invece uscito in Spagna e per ora non tradotto in italiano. Vox, el retorno de los ultras que nunca se fueron, del giornalista Xaver Rius Sant, uscito per i tipi di Akal all'inizio di questo 2023. E perché abbiamo scelto questo libro? Per una ragione forse ovvia, visti i risultati elettorali delle amministrative spagnole di fine maggio e in vista anche delle prossime elezioni politiche, legislative anticipate del 23 luglio. Insomma, l'aumento di voti della destra e anche dell'estrema destra e la possibilità che ci sia appunto prossimamente, speriamo di no, un governo appunto di coalizione tra il Partito Popolare e Vox anche in Spagna. Ecco, questo libro quello che fa è scrivere in tutti i dettagli e raccontare la storia di Vox dalla sua fondazione, anche quella dei suoi dirigenti. Vox, ricordiamo, è un partito che fu fondato alla fine del 2013 su posizioni non così radicali per concorrere alle elezioni europee del 2014 e in quel momento guidato soprattutto da Alejo Vidal Quadras, storico dirigente del Partito Popolare che al tempo era da quasi 20 anni parlamentare europeo. Ecco, non entrò nel 2014 nel Parlamento europeo per poche decine di migliaia di voti e da lì il partito fu preso in mano da un altro dei dirigenti provenienti anch'esso dal Partito Popolare, ossia Santiago Abascal, che ne divenne il leader e lo è tuttora, come si sa, diciamo che prese ancora di più una piega radicale, convertendosi nella declinazione spagnola di quella che è l'ultradestra o estrema destra che dir si voglia a livello europeo e globale. Il libro di Rius Sant ripercorre la storia di Vox in questi 10 anni, soprattutto quella traversata nel deserto tra il 2013 e il 2018, in cui Vox, insomma, non riusciva ad ottenere nessun tipo di successo elettorale, 0,5-0,6%, senza rappresentanti né in ambito statale né in ambito locale, fino poi ovviamente al momento in cui tutti hanno cominciato a parlare di Vox, l'autunno del 2018, le elezioni in Andalusia e poi appunto le elezioni legislative spagnole del 2019, sia quelle di aprile sia quelle poi di novembre, che hanno convertito Vox nel terzo partito nelle Cortes di Madrid, un partito fino ad ora all'opposizione, eccetto in ambito locale, dall'anno scorso nella comunità autonoma della Castiglia e León, dove governa come junior partner, per così dire, insieme al Partito Popolare. Ecco, l'importanza del libro di Xaver Rius Sant non è solo quello di offrire una panoramica globale sulla storia di Vox, ma anche quello soprattutto di raccontare molte cose che non si sapevano sugli inizi di Vox, tanto dal punto di vista del background politico e delle origini di alcuni dei suoi leader, come Ortega Smith, come lo stesso Abascal, ma anche Espinosa de los Monteros e il Rocío Monasterio, o Jorge Buxadé. Ortega Smith e Jorge Buxadé hanno avuto un passato da giovani negli anni 80 e 90 in formazioni neofalangiste, falange in concreto, presentandosi anche alle elezioni come candidati di questi partiti ultraminoritari che insomma, avrebbero voluto di nuovo Franco vivo e vegeto governando con pugno duro la Spagna, ma poi anche appunto sui primi momenti di storia del partito, con un sacco di aneddoti e di informazioni che riguardano anche i finanziamenti di Vox. Altro punto interessante, Banzo, è quello che racconta diciamo un'altra traversata del deserto, che è quello dell'estrema destra spagnola nella Spagna democratica, ossia l'incapacità dell'estrema destra post-falangista di ottenere risultati elettorali, eleggere deputati o anche consiglieri in ambito locale, eccetto in pochissimi casi, e anche quello di unificarsi, ecco, fino al momento in cui appare Vox. Ecco, sì, Steven, forse sì? È un'analisi un po' tagliata con l'accetta, qui diciamo il politologo, anche se non sei politologo di formazione, sei tu, però ecco, possiamo dire che Vox è riuscito in una operazione di rebranding, perché appunto parlavi prima di formazioni neofalangiste e hanno dovuto attraversare il deserto perché giustamente appena finita la dittatura, tranne qualche fissato, qualche fanatico ideologico, la maggior parte della gente non voleva sentire in Spagna nulla di tutto ciò, anche essendo di ideologia conservatrice, diciamo. e forse probabilmente il successo di Vox sta nell'avere portato nella contemporaneità queste idee che sono, diciamo, molto antimoderne in ogni senso, di avere introdotto appunto questo tipo di discorso nella politica spagnola, perché, come sottolineavi, tutta gente che, quasi tutta, ecco, molta, che è anche transitata per il PP, che aveva sì un discorso di destra, anche tradizionalista, che però si è progressivamente modernizzato, perché ad esempio l'omofobia aperta oggi come oggi è qualcosa che in Spagna professa solo Vox. Il PP a suo tempo si è opposto al matrimonio egualitario e le leggi conseguenti, però ecco, diciamo che dal mio punto di vista c'è stato un adeguamento, mentre Vox ha riproposto tutta una serie di idee che progressivamente il PP, rimanendo insomma il partito che è, aveva dismesso. Sì, sì, sì, assolutamente. E tra l'altro, insomma, l'utilità di questo libro è anche per mostrare come in realtà molti dei dirigenti di Vox, anche in ambito locale, abbiano un passato in formazioni appunto post-franchiste. Ecco, non ci sono solo un settore come Abascal o all'inizio Vidal Quadras, che proviene dal Partito Popolare, che comunque sia importante, ma c'è anche tutto un altro settore, una serie di dirigenti che sono stati eletti poi nel 2019 anche nel Parlamento spagnolo o adesso, insomma, come nel caso della comunità autonoma di Valencia, era il candidato alla presidenza della regione, Carlos Fuertes, se non ricordo male il nome, che hanno un passato in Fuerza Nueva o in Democracia Nacional o in altre formazioni appunto dello spettro, veramente quello che in Italia chiameremo neofascismo. E per ultimo, ecco, infatti, perché se vi suona Fuerza Nueva, se vi suona familiare, ecco, con tutte le specifiche locali non vi state sbagliando. Esattamente, esattamente, salvando tutte le distanze, ecco. E dall'altro poi appunto raccontare anche, soprattutto dal 2018-19 in avanti, questo, diciamo, exploit di Vox, come questo ha comportato anche una radicalizzazione del Partito Popolare, e poi anche, focalizzandosi sul caso catalano, anche mettere in luce come in realtà i fatti catalani del 2017, il referendum incostituzionale, la dichiarazione unilaterale di indipendenza, ecco, dell'ottobre del 17, siano stati, diciamo, la spoletta che ha permesso a Vox di avere una visione, una visibilità, scusate, a livello spagnolo, e di concentrare una parte del voto più radicale del nazionalismo spagnolo. Ecco, Steven, io stavo pensando che forse è meglio fare alcune specifiche anche per gli ascoltatori italiani che forse non sono così addentri alle vicende spagnole come noi, che nostro malgrado viviamo qui, no, per molte questioni no, non nostro malgrado. Allora, volevo ricordare che l'ineffabile Diego Fusaro aveva tentato un'avventura politica, anche lui lanciando un partito con quel nome, ovviamente con la solita ambiguità che lo contraddistingue, non ricordo in che elezioni, perché si trattò di un fiasco clamoroso. Poi volevo precisare che il colore di Vox è il verde, il colore distintivo di Vox, quindi diciamo che in Spagna il verde si tende ad associare molto a livello di identificazione politica con Vox e non con movimenti ecologisti. Beh, da noi è stato durante anni la Lega, ecco, non dimentichiamolo. Sì, è vero, è vero. Si tratta di una sfumatura di verde diverso, però ecco, sì. Comunque non ha sicuramente un discorso simile alla Lega Vox, perché è ultracentralista. Certo. Cioè, la Lega aveva un passato federalista. E poi volevo fare un ultimo appunto di traduzione sul titolo, il ritorno dello ultras, perché il termine ultra in spagnolo appunto della Spagna, non ha nessun riferimento all'analogo italiano, che forse per assonanza vi viene in mente, cioè ultra non ha nessun riferimento al calcio. E indica generalmente i militanti dell'ultradestra, ecco. Eh sì, è appunto da qui anche appunto questo titolo e questa capacità dell'autore Xavier Rius Sant di andare a scovare il passato di molti dirigenti di Vox per mostrare appunto le connessioni con quello che è stato, diciamo, tutta l'estrema destra post-falangista o neofalangista, che dir si voglia. Vox, il ritorno dello ultras che nunca se fueron, pubblicato da Cal, è il libro di Zibaldone di questa settimana. Thank you. Il tempo stringe, Banzo, siamo davvero in ritardo, siamo agli sgoccioli di questa puntata di Zibaldone, ci rimane proprio il tempo per salutarci, per darvi appuntamento la prossima settimana e per l'ultimo trago, la canzone con cui ci salutiamo, Banzo, che è in questo caso non una news, sono state news tutte quelle che abbiamo trasmesso quest'oggi, in questo caso è un omaggio a una cantante che è Astrud Gilberto, che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa. Astrud Gilberto è, insomma, che tutti conoscono per brani che hanno a che fare con la bossa nova brasiliana come The Girl from Ipanema. In quel momento fu la sua prima canzone in collaborazione con artisti fantastici, no, della scena brasiliana e internazionale, anche di jazz, e da lì appunto cominciò la sua carriera appunto di una donna che in realtà era la compagna di Joao Gilberto, grazie Banzo, e che insomma era stata fatta cantare così quasi per caso nella registrazione di quell'album, parliamo del 1965, e da lì poi insomma cominciò poi una sua carriera che l'ha portata a cantare durante molti anni. Con questo brano noi ci salutiamo e ci ritroviamo venerdì prossimo come sempre qui su Zibaldone. Banzo, grazie di essere stato con noi. Grazie a te, Steven, alla prossima. E come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, verso le 19:56 diceva tutti i venerdì: cari ascoltatori, siete la mia passione, ma so che calmarvi è molto semplice, con la prossima puntata venerdì prossimo. Bravo Banzo, mi sembrava di essere Bruno. Ciao a tutti, buon venerdì sera e godetevi questa The Girl from Ipanema. Que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Tó, and tan, and young, and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes we'll she just doesn't see.